Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dalla lista, dei 10.000 contribuenti italiani e quella che oggi, di cui parlano oggi tutti i giornali, e soprattutto della richiesta, da quello che si è capito, la richiesta che ha fatto la Procura di Torino, che sarebbe per ottenere la lista appunto di 10.000 italiani su cui grava il sospetto di evasione fiscale e con conto corrente presso la filiale di Ginevra di HSBC, che è il colosso britannico del credito. Racconteremo anche la vicenda. Anche in questo caso c'è una talpa, come già avvenne per la lista, quindi voi la ricorderanno, degli evasori tedeschi o dei contribuenti tedeschi sospettati di evasione. La talpa è un italo-francese di 37 anni, Hervé Falciani, che si occupava dei computer della HSBC a Ginevra, dove sono state trovate nelle memorie dati che fanno gola alle agenzie delle entrate di tutto il mondo, non solo italiane, di cui tra l'altro 10.000 italiani. Fuggito in Costa Azzurra, fu arrestato nel gennaio 2009. Ma la racconteremo anche perché il nostro Simone Spezia oggi ha intervistato Luigi Magistro, che è il direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e Magistro ha detto: non si sfugge, il fisco avvierà in ogni caso controlli fiscali sulla lista di questi cittadini italiani, richiesta dalla Procura di Torino. Poi c'è la proposta che vi segnalo del Sole 24 Ore di oggi, a opera di Guido Tabellini, in cui si ricorda l'ipotesi di, ne parleremo nei prossimi giorni, un'ipotesi di andare a verificare il patrimonio, mettere in corrispondenza il patrimonio con il reddito, anche perché il patrimonio, con la digitalizzazione delle informazioni, è, sintetizzo in maniera un po' brutale, è più fotografabile di quanto non siano altre forme di incassi, altre forme di guadagni, e comunque è una fotografia di quella che è la disponibilità economica di un contribuente fiscale. Di questo parleremo in apertura. Parleremo anche però dell'iniziativa dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, l'illegalità in generale e quindi anche la corruzione. L'ANCE sta lavorando a una riforma organica di tutte le regole. Anche qui ne parleremo con un accenno ai tempi. I tempi per realizzare le opere, secondo l'ANCE, favoriscono, sono un elemento che favorisce l'illegalità, e i nuovi fondi stanziati, che lamenta l'ANCE, insomma, di 11 miliardi previsti dal piano delle infrastrutture prioritarie del CIPE, finora sono stati confermati solo 6 miliardi e 6 e solo 20 milioni di euro corrispondono a nuove opere affidate. Poi la borsa va bene, più 1,1% Milano, è la migliore grazie ai bancari, perché Parigi guadagna lo 0,7 come Francoforte e come Londra, l'America è più 0,4, l'euro è forte rispetto ai giorni scorsi, soprattutto a 1,36,6. Molto bene UbiBanca più 3,5, Intesa più 3,3, Banca Popolare più 2,5, Popolare Milano più 1,90, bene anche Pirelli più 3,30, Estimanco Electronics più 3,1, Fiat più 2,1, Buzzi Unicem più 1,80%, Telecom più 1,80, Exor più 1,7, Unicredit più 1,5. Di banche, o meglio del rapporto tra la Lega, la vincitrice di queste regionali, nelle regioni che controlla, soprattutto Piemonte e Veneto, ma anche in Lombardia, e il mondo delle banche, delle fondazioni bancarie, parleremo alle 18.10 dopo la dichiarazione di Umberto Bossi di oggi, molto nette nello stile anche di Bossi, proprio su cosa intende fare la Lega delle banche del territorio, delle banche del nord. Tutti gli occhi sono puntati soprattutto su Unicredit, Intesa San Paolo, UbiBanca, Banco Popolare. Sono queste infatti le principali banche del nord, forse ho dimenticato, vabbè, UbiBanca l'ho detta, Banco Popolare pure, e la Popolare di Milano. Ma insomma, Bossi ha dichiarato oggi: è chiaro che le banche più grosse del nord avranno uomini nostri a ogni livello. La gente ci dice: prendetevi le banche, e noi lo faremo. Di questo parleremo ampiamente, perché il rapporto è anche politico-culturale tra la Lega e chi siede nelle fondazioni bancarie. sono universi che spesso non si sono parlati, di estrazione molto diversa, la Lega non li sente vicini, mettiamola così. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dal petrolio, che è in rialzo, $84.90 al barile. Per quello che riguarda la benzina, il ministro Scajola ha confermato che la prossima settimana vi sarà una proposta, attraverso anche il sottosegretario Saglia, la proposta del Ministero per riuscire a incidere a favore del consumatore sul prezzo finale della benzina. La prossima settimana dovrebbe esserci il tavolo su questo e chiaramente ce ne occuperemo anche a Focus Economia. Settore auto non si fermano i problemi, non si arrestano i problemi per la Toyota. Che cosa è successo? La Toyota ha sospeso temporaneamente addirittura la vendita della Lexus GX 460, la cui affidabilità e sicurezza è stata messa in dubbio dal magazine americano Consumer Report. La Cina non ne vuole sapere di rivalutare lo yuan, la propria moneta, ha detto infatti il ministro giunto agli affari esteri cinese Cui Tiankai, che le pressioni per rivalutare, avete letto anche delle dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti, per rivalutare la valuta cinese sono ingiustificate e la Cina non cederà a queste pressioni. Ancora per quello che riguarda gli Stati Uniti, vendita al dettaglio a marzo più 1,6% sopra le attese, il maggior rialzo da 4 mesi a questa parte, supera ogni previsione degli analisti. Bene anche le scorte in azienda, aumentate dello 0,5% sopra le stime. E per quello che riguarda il mercato del lavoro, ha detto Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, che ci sono segnali incoraggianti. Però dall'America arrivano notizie contrastanti dal fronte bancario, perché JP Morgan, insomma, uno dei colossi delle banche d'affari americane, ha confermato che le banche sono uscite prima di tutto il resto dell'economia dalla crisi. E infatti l'utile netto dei primi tre mesi del 2010 è superiore a ogni stima, $3.300 milioni, con un dividendo a 74 centesimi contro i 64 centesimi attesi. E anche UBS, l'Unione delle Banche Svizzere, è molto felice per il fatto che la Confederazione Elvetica abbia potuto vendere la sua partecipazione, conseguendo un utile per i contribuenti di 1.200 milioni di franchi svizzeri. Cosa è successo? In sostanza, lo Stato federale svizzero era intervenuto per aiutare UBS, che aveva svalutato 16 miliardi di asset. E adesso è uscito dalla quota con cui era entrato in UBS, guadagnandoci, come sottolinea, con un pizzico anche di così polemica, UBS, che dice: siamo felici che i cittadini svizzeri, da questo ingresso dello Stato svizzero nella nostra banca, da cui adesso escono, abbiano guadagnato come contribuenti 1.200 milioni di franchi svizzeri. Ricordo che due giorni fa UBS aveva registrato un utile lordo nei primi tre mesi dell'anno di 1.730 milioni di euro, per cui il dato migliore dal 2007. Anche qui un segnale che le banche più invischiate anche nei prodotti tossici, sono già riuscite a macinare utili. Ancora per quello che riguarda le banche, però Morgan Stanley potrebbe subire perdite per miliardi di dollari a causa di pessimi investimenti effettuati nel settore immobiliare. Secondo i calcoli diffusi oggi dal Wall Street Journal, il rosso dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 miliardi e mezzo di dollari e sarebbe la perdita più pesante nella storia del private equity real estate investing, ossia degli investimenti fatti dai private equity nel settore immobiliare. Volete sapere se l'aumento delle scorte aziendali è un dato un buon segnale? Dipende. In generale, quando crescono le scorte non è un buon segnale, perché vuol dire che si vende meno. Da come leggiamo un dato americano, invece, potrebbe essere anche la conseguenza di un aumento delle vendite al dettaglio, quindi che porta le aziende non più a svuotare i magazzini come facevano prima, ma a iniziare a accumulare materie e prodotti nei magazzini. Secondo l'agenzia di rating Fitch, entro 2 settimane la Grecia farà ricorso agli aiuti, quindi 45 miliardi, di cui 30 miliardi europei e circa 15 miliardi, un po' di meno, 12 miliardi del Fondo Monetario Internazionale. Sono ripresi a salire tra l'altro i rendimenti dei titoli di Stato greci, perché nonostante l'assicurazione appunto di questi aiuti da 45 miliardi, il mercato resta molto perplesso sulle obbligazioni greche, e siamo già al 7,05% sul titolo a 10 anni come rendimento e al 6,55% sulle obbligazioni greche a 2 anni. E torna a frenare la Germania, ha dichiarato il ministro dell'economia tedesco Rainer Brüderle: qualunque decisione sugli aiuti alla Grecia deve essere valutata attentamente. Però faccio notare che oggi, in un bel articolo su Sole 24 Ore di Adriana Ceretelli, viene fatto notare come in realtà potrebbe essere anche un buon investimento per gli stati prestare soldi alla Grecia, cioè dare questo prestito, perché il tasso del 5% farebbe guadagnare, rispetto alle quote che ogni stato dovrebbe prestare, 620 milioni di euro alla Germania, 460 milioni di euro alla Francia e 350 milioni di euro all'Italia, che presterà, da quello che si è capito, 5 miliardi e mezzo. Per cui, insomma, se la Grecia non avrà altri problemi, ci si guadagna anche a prestare soldi agli ellenici. Intel sarà un altro dei nostri approfondimenti, perché Intel oggi, dopo aver diffuso un utile da 2 miliardi e 400 milioni di dollari e 10 miliardi di ricavi, ha annunciato che per la prima volta in 5 anni tornerà ad assumere tra le 1.000 e 2.000 assunzioni nel gruppo Intel, e ne parleremo appunto dopo i mercati. Allora, l'ultima notizia che non è bella, e poi partiamo con l'ANCE: una famiglia su tre ha perso, è stata toccata dalla crisi. Secondo il rapporto della Confesercenti diffuso oggi, il 28% delle famiglie hanno dichiarato di essere direttamente coinvolte nella crisi economica, sia in relazione alla perdita diretta del posto di lavoro per sé o per qualche componente della famiglia, o per l'impatto con la cassa integrazione. Insomma, è molto alta come stima, però una su tre dice che ha avuto un impatto diretto sul posto di lavoro o come cassa integrazione o come perdita dalla crisi, dato Confesercenti ISP. E un'ultima notizia: la Commissione Bilancio della Camera ha bocciato la cosiddetta cassa integrazione lunga. Il parere dato a metà pomeriggio, infatti, chiede la soppressione dell'articolo inserito nel corso dei lavori parlamentari a Montecitorio, e anche di sopprimere le norme cosiddette salva Eutelia. Ecco perché il titolo, lo dico a chi ce lo sta già chiedendo, il titolo Eutelia oggi ha sofferto così tanto in borsa. Allora, primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Arriveremo alla Lega, alle banche, alle richieste di banche più sul territorio di poter pesare sulle banche, di fondazioni bancarie che non siano solo salotti buoni, ma rappresentino quello che è anche il corpo sociale del territorio, che prevalentemente in queste regioni vota Lega. Adesso i dati e anche le proposte dei costruttori italiani per combattere l'illegalità e la corruzione nell'edilizia. Eh sì, perché l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, nel ricordare come il piano casa lanciato dal governo Berlusconi l'anno scorso non stia decollando e non abbia avuto l'effetto anticongiunturale sperato, cioè abbia fatto ripartire gli investimenti nel settore del mattone, il piano casa 2 infatti non decolla e praticamente i livelli si mantengono su quelli del periodo precedente. Ricordo che come senza stanziamenti nel 2010 vi sarà il rischio di blocco delle attività per l'ANAS, e quindi manutenzione e sviluppo della rete stradale, tranne la rete autostradale. Ha sottolineato come si stiano allungando ulteriormente i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione italiana. I tempi di attesa per le imprese negli ultimi 3 anni si sono dilatati paurosamente per il 62% delle imprese. Ma il presidente dell'ANCE sta lavorando anche a una riforma organica delle regole per combattere illegalità e corruzione nel mondo delle costruzioni, che sappiamo essere uno dei settori preferiti anche dalla criminalità organizzata. Allora, Paolo Buzzetti, al microfono il nostro Nicola Accardo, ha spiegato come si possa realizzare opere di qualità in tempi e costi adeguati, perché questo tra l'altro è anche i tempi inaccettabili forniscono pretesti poi e spazi all'illegalità. Pensate che in Italia ci vogliono 6 anni per bandire una gara per un progetto di medio grandi dimensioni e oltre 10 anni per realizzarla. Buzzetti. Abbiamo voluto organizzare un convegno in questo momento difficilissimo per le imprese di costruzioni, che permetta di discutere in merito alla possibilità di uscire dalla crisi con delle regole che selezionino le imprese di qualità. Il Paese vuole che ci siano opere fatte in tempi ragionevoli, non il doppio di quelli comunitari, che siano fatte a costi adeguati e che siano fatte in qualità. Troppo spesso tutto ciò è lontano da quello che accade in Italia, perché ci abbiamo troppe norme troppo complicate e quindi ci vogliono tempi lunghissimi, 15 anni per una concessione edilizia, 10 anni per un'opera media. Poi la selezione delle imprese avviene in gironi infernali in cui l'unica logica è quella del fatturato e non è quella della qualità dell'impresa che viene selezionata. Poi non ci sono elementi come la legalità che sono rispettati. Pensiamo per esempio che lo stesso Stato ti paga in ritardo, quindi fa fallire l'impresa per salvare l'amministrazione, mentre però poi le tasse e tutto il resto sono puntualmente richieste nei tempi giusti. Allora, tutto questo evidentemente non va bene e richiede un urgente intervento per cambiarlo, e se non adesso, quando? Ormai è venuto il momento di farlo. Così il presidente dell'ANCE Buzzetti. E poi il tema dei ritardi negli stanziamenti effettivi dei soldi già decisi, già stanziati dal CIPE. Il CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e nel piano delle infrastrutture prioritarie, quindi le reti, no, autostradali, ferroviarie e quant'altro, ci sono 11 miliardi e 200 milioni di euro. Finora però ne sono stati confermati, come che verranno dati, solo 6 miliardi e 6, e di questi solo 20 milioni di euro, come fatto notare anche durante la 2 giorni a Parma del Centro Studi Confindustria, solo 20 milioni di euro corrispondono a nuove opere affidate. Allora, praticamente a un anno di distanza, secondo l'ANCE, non si è avuto alcun effetto di questi soldi sul mercato delle nuove opere pubbliche. Risposta del ministro Matteoli, tra l'altro oggi c'è una risposta anche su Sole 24 Ore, ma insomma Matteoli dice: quello che si chiede è un maggiore finanziamento da parte dello Stato, noi tutti gradiremmo averlo e anche al ministro Monti farebbe piacere, ma bisogna fare i conti con quelle che sono le risorse economiche del Paese. Sentiamo il ministro Matteoli al microfono, il nostro Nicola Accardo. Dal CIPE passano anche quelle opere infrastrutturali che sono realizzate attraverso il project, quindi attraverso i privati, attraverso il pedaggiamento, e quindi quello che si chiede è un maggiore finanziamento da parte dello Stato. A tutti gradiremmo, a me averlo, e credo che anche al ministro Tremonti piacerebbe mettere a disposizione le risorse. Bisogna fare conti con quelle che sono le risorse economiche del Paese, e nonostante la crisi io credo che il settore delle infrastrutture in questi quasi 2 anni di governo ha camminato molto, perché siamo riusciti a trovare il modo di far partire 19 opere che aspettavano di partire da alcune addirittura da decenni. Insomma, tradotto dal linguaggio della politica, per il momento vediamo come andranno i conti pubblici e poi vediamo se ci saranno le risorse per le grandi opere. Devo dire che insomma, da qualche parte, magari anche con la lotta all'evasione, questi soldi potrebbero essere trovati. È innegabile che le opere infrastrutturali, lo diciamo anche in tema di opere europee, quindi di ipotesi di obbligazioni europee, le opere infrastrutturali abbiano un effetto anticiclico molto forte, cioè combattono, vanno contro il ciclo, che in questo caso è negativo, perché insomma sono da sempre uno degli strumenti preferiti per creare PIL e valore aggiunto. Basta che poi non si creino anche sprechi tangenti e quant'altro, e obiettivamente da qualche parte i soldi si potrebbero anche trovare, visto che il CIPE comunque questi 6 miliardi e 6 li ha confermati, gli altri non sappiamo che cosa è successo, però non li ha ancora stanziati. Magari i soldi arriveranno dalla lista dei 10.000 italiani su cui grava il sospetto di evasione fiscale che hanno il conto corrente presso la filiale di Ginevra dell'HSBC, che è il colosso bancario del credito. Cosa è successo? La Procura di Torino starebbe per ottenere questa lista di 10.000 italiani, che attualmente è in mano ancora alla magistratura francese, a cui è stata a sua volta consegnata da un ex dipendente della banca. Però insomma non ci dovrebbe essere nessun impedimento per la rogatoria, quindi per ottenere queste informazioni. La lista potrebbe arrivare in Italia tra 20 giorni, dopodiché inizieranno le verifiche della Guardia di Finanza. Anche qui, come ricordavamo, tutto nasce da una talpa, l'italo-francese Hervé Falciani, che si occupava dei computer della HSBC di Ginevra e nelle cui memorie sono contenuti dati che appunto fanno gola a tantissime agenzie delle entrate, tra cui quella italiana. Falciani è lo stesso che aveva inizialmente tentato di vendere i dati ad altre banche e poi al servizio segreto tedesco, ufficialmente, ma su questo poi si è aperta tutta un'inchiesta, senza successo. È fuggito in Costa Azzurra, è stato arrestato a gennaio del 2009 e dopo le informazioni sul traffico, così le ascoltiamo per bene, le informazioni meteo, ascolteremo l'intervista che nostro Simone Spezia ha fatto appunto al direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, il quale, vi anticipo subito, ha detto: non sfuggiranno gli evasori ai controlli, vi saranno i controlli, anche se non saranno, se non raccolte legalmente, saranno comunque uno spunto per cercare elementi e di verifiche, quindi ulteriori prove. Allora, dopo il meteo ascolteremo che cosa potrà capitare e quanto devono tremare questi 10.000 italiani, non che diciamo, la cosa ci lasci senza sonno, ma e tra l'altro anche ricorderemo come sono andate le ultime dichiarazioni dei redditi, perché è giustissimo dire, come ha detto oggi il presidente di Confindustria Marcia Gaglia, è tornata sul tema che se le imprese tirano la cinghia, i cittadini tirano la cinghia, è il momento che anche lo Stato faccia lo stesso, riducendo la spesa e gli sprechi, però è giusto che tutti tirano la cinghia nello stesso modo e non solo chi, diciamo, come gli imprenditori nel mirino o i dipendenti sono obbligati a pagare le tasse e su di loro si scarica poi tutto, anche il costo e il danno dell'evasione fiscale. Ci risentiamo fra qualche minuto. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17.35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa, che comunque vi confermo ha chiuso bene, più 1,2% Milano, molto bene UbiBanca, Intesa più 3,5%, anche Banco Popolare più 2,5%, cerchiamo di capire cosa se ne farà l'Agenzia delle Entrate della lista di 10.000 italiani che hanno il proprio conto nella filiale di Ginevra della HSBC. Lo ha spiegato al nostro Simone Spezia, il direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, e poi magari ricorderemo anche qualche dato nel frattempo sull'evasione fiscale. Per utilizzare ai fini fiscali, e non mi riferisco a quelli penali che hanno altre regole, questo tipo di informazione, le informazioni devono pervenire secondo quelle che sono le regole dello scambio di informazioni a livello internazionale e quindi secondo le convenzioni che abbiamo con i vari paesi. Quindi l'acquisizione deve essere legittima da un punto di vista amministrativo fiscale. Tutto ciò che può pervenire all'Agenzia delle Entrate diversamente fuori da questi canali è un qualcosa che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare come spunto per avviare delle indagini, per acquisire poi delle prove secondo le regole e di conseguenza utilizzarli. La sostanza è che comunque non si sfugge. La sostanza è che non si sfugge, però la sostanza è anche che, come dire, per noi è essenziale il rispetto delle regole. Sugli altri fronti state lavorando molto intensamente sul fronte di San Marino in questa fase. Come stanno andando le cose? Ma guardi, sul fronte di San Marino ci sono numerosi casi di violazioni accertate e sulle quali stiamo procedendo. Stiamo lavorando molto anche a livello di analisi delle varie situazioni che sono da intercettare, e comunque mi pare che si stia sviluppando anche da parte di San Marino comunque la consapevolezza che occorra porre la parola fine a certe fenomenologie di frode, soprattutto in materia di IVA, e quindi da quel punto di vista credo che siamo molto vicini alla parola fine di questa storia. Che impressione avete a livello più generale? La stretta che state dando voi, che sta dando la Guardia di Finanza, che stanno dando le stesse procure, questo nuovo sistema di scambio di informazioni tra i paesi europei che in parte si sta inaugurando, sta avendo un effetto deterrente sugli evasori? Ma io direi certamente sì. Dopo anni nei quali si è sentito sempre parlare di questa evasione internazionale, di patrimoni all'estero, di estero residenti fittizi e magari con qualche caso clamoroso ogni tanto emerso, da un anno a questa parte le cose a mio avviso sono profondamente cambiate. Abbiamo sviluppato un'azione che non ha precedenti sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza, soprattutto perché sistematica, quindi non la ricerca del caso eclatante e particolare, ma una ricerca a tappeto di queste situazioni. Sul fronte dei patrimoni all'estero, una attenta selezione di tutte le situazioni a rischio, e quindi poi anche l'acquisizione di informazioni all'estero, l'acquisizione di informazioni da qualsiasi fonte possibile, la richiesta anche di informazioni ai contribuenti. Ricordo solo un caso tra i più importanti: abbiamo mandato 40.000 questionari nel novembre scorso a tutti i soggetti rientrati dall'estero che per vari motivi potevano aver lasciato all'estero disponibilità economiche anche importanti. Sul fronte delle estero residenze fittizie stiamo procedendo, ripeto, a tappeto e insomma con ottimi risultati che non possono non sortire effetti essenziali dal punto di vista della deterrenza. Più recentemente abbiamo fatto un'altra campagna di richiesta di informazioni sui soggetti che detengono immobili in alcune realtà, in particolare siamo partiti dalla Francia e dal Regno Unito, e anche lì parliamo di diverse migliaia di comunicazioni inviate. Sul fronte invece più puramente italiano, o meglio non solo estero e anche italiano, c'è un'evoluzione, se così possiamo dire, partita dall'inizio dell'anno nei sistemi di accertamento, ossia molte persone da anni si chiedono: ma come mai i redditi degli italiani, e sono dati della settimana scorsa, sono mediamente così bassi, e così bassa la percentuale di coloro che dichiarano sopra i 100.000 euro, e poi se uno va a guardare il numero di SUV, il numero di barche, il numero di immobili di lusso, trova delle dimensioni imponenti. E quindi c'è questo nuovo fronte dell'accertamento che è banalmente il redditometro. A gennaio, se non erro, a gennaio avete varato nuove regole. Come stanno girando le cose da quel punto di vista? Stiamo utilizzando in modo molto più spinto rispetto al passato questo strumento del cosiddetto redditometro. Lei pensi che fino a qualche anno fa era qualche migliaio il numero degli accertamenti fatti attraverso questo redditometro, l'anno scorso ne abbiamo fatti 28.000, è in costante crescita il numero degli accertamenti, quindi questo dimostra come puntiamo molto su questo strumento che effettivamente risponde a quell'esigenza che notava lei prima di intercettare attraverso queste manifestazioni di spesa importanti i redditi nascosti al fisco. A mio avviso è la vera nuova frontiera che abbiamo decisamente intrapreso e che porterà, ne sono convinto, importanti risultati a fini di deterrenza, perché alla fine quando il contribuente comprenderà che come c'è una manifestazione di spesa di un certo tipo, lei citava il SUV come esempio classico, e il reddito non è compatibile, il reddito dichiarato al fisco non è compatibile con questa spesa, è chiaro che il fisco deve intervenire immediatamente. Ecco, è questo l'obiettivo che contiamo di raggiungere a livello anche qui di massa al più presto possibile, ma siamo già a livello molto avanzato. Lei ha detto che i controlli tramite redditometro sono stati 28.000 l'anno scorso. Quanti contate di farne quest'anno? Almeno altrettanti, ma contiamo di migliorarlo, di migliorare sicuramente questo numero. E anche di essere più mirati, suppongo. Esattamente, infatti il problema non è tanto il numero. Quando siamo arrivati a certe entità del tipo appunto tra i 20 e i 30.000, probabilmente annualmente, probabilmente siamo ad un livello già adeguato. L'importante è migliorarli ulteriormente e tra l'altro stiamo lavorando a quello che viene definito il nuovo redditometro, quindi il nuovo meccanismo di calcolo che può anche più aggiornato, che tenga conto dei consumi che oggi sono più frequenti come diciamo dimostrativi di capacità reddituale. Ecco, questo nuovo redditometro sarà un importante strumento sia per noi per controllare, ma soprattutto per gli stessi contribuenti per capire quello che il fisco si attende che dichiarino, e laddove non lo dichiarino potranno essere soggetti a controlli. E quindi gli elenchi verranno utilizzati, lo ha spiegato bene nel dettaglio. Sono d'accordo con voi che 28.000 accertamenti non sono tantissimi, anche se sono meglio di niente. C'è una proposta che vi invito a leggere sul Sole 24 Ore di oggi, fatta da due economisti come Guido Tabellini e Angelo Provasoli. La sintetizzo, è appunto in prima pagina, dice insomma invita l'Agenzia delle Entrate, grazie ai progressi dell'informazione digitale, all'accertamento dei patrimoni, che è tecnicamente più agevole dell'accertamento dei redditi, anche perché, ed è un discorso molto molto elementare, cito testualmente, la variazione del patrimonio è uguale al reddito meno quanto si è speso per i consumi, insomma quello che entra meno quello che esce, quello che resta va a contribuire al patrimonio che uno ha, che poi venga utilizzato per comprare automobili, immobili o quant'altro, poco conta. E allora dicono i due economisti oggi su Sole 24 Ore, l'accertamento dei patrimoni può diventare uno strumento cruciale per segnalare la presenza di redditi evasi, non tanto su quello sul passato, perché uno il patrimonio lo può avere anche di famiglia, può averlo per altri tipi di donazioni, ma perché andando a vedere anno per anno confrontare la variazione annuale del patrimonio valutato al costo di carico con i redditi dichiarati, si vede se qualcuno dichiara molto meno di quanto poi guadagna, perché insomma se il mio patrimonio passa da 100 a 120 come appunto costo di carico e io dichiaro di aver guadagnato 5 quell'anno, c'è qualcosa che non torna, a meno che io non riceva molta beneficenza. E vedremo se ne riparleremo anche con l'Agenzia delle Entrate e anche con i due economisti. Faccio solo notare, visto che li citava Simone Spezia in questa intervista, e visto che alcuni di voi parlano come sempre di populismo, va bene, siamo un po' populisti, demagogici, ma cosa ci volete fare? 18.860 euro l'imponibile lordo annuo medio in Italia, vuol dire 1.590 euro lordi al mese, lordi, vuol dire che insomma, l'italiano in media guadagna 1.000 euro al mese, di cui l'1% ha oltre 100.000 euro lordi di reddito, ma la cosa interessante è che sono 387.000 persone, ma di cui 220.000 sono o pensionati o dipendenti, che notoriamente sono le fasce più ricche del paese, e solo 160.000 sono i lavoratori autonomi, con più di 100.000 euro lordi l'anno. Poi, se andiamo a chi guadagna più di 200.000 euro lordi l'anno, sono lo 0,2%, cioè 75.000 persone in un anno, e di cui anche qui 62.000 dipendenti e pensionati. e spesso vediamo i pensionati sfrecciare in Porsche e Ferrari, e di questi appunto solo 13.000 sono i lavoratori non pensionati, non dipendenti. È interessante perché, come ogni tanto ricordiamo, ci sono in Italia 1 milione di automobili sopra i 2.500 cc di cilindrata, ci sono 94.000 barche sopra i 10 metri e altre 500.000 barche sotto i 10 metri. Immaginiamo anche qui tutte di pensionati che, non avendo molto da fare, comprano barche, aerei e macchine sportive. Il traffico, poi la borsa e poi i conti di Intel. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, adesso dobbiamo parlare di borsa. È verissimo quanto alcuni scrivono al 349-238-6666 che molte di queste barche, macchine sopra i 2500 cc di cilindrata sono intestate a società di noleggio, alla società, all'azienda, al leasing, però anche questo si può controllare. Ripeto, la proposta di Tabellini è una proposta che va seguita, e devo dire, lo riavremo ospite, che anche il presidente dell'Ordine dei Commercialisti Italiani, Commercialisti e Ragionieri Contabili, Claudio Siciliotti, ai nostri microfoni qualche mese fa disse: ma insomma, noi siamo più favorevoli a una, diciamo, forma, a un fisco che va a controllare anche il patrimonio che non agli studi di settore e altre formule che in realtà poi creano molti più problemi, ingabbiano e sono più distanti dalla realtà e diventano anche penalizzanti. Comunque la borsa. Beh, c'è un bellissimo ascoltatore che scrive: non vedo l'ora di diventare pensionato, e probabilmente la battuta più bella da questo punto di vista delle ultime puntate. Bene la borsa, più 1,2%, bene anche Parigi, più 0,6%, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,7%, l'America più 0,4%, Milano meglio di altre grazie a UbiBanca più 3,7%, Intesa più 3,6%, Pirelli più 3,2, Steamark Electronics più 3,1, Banco Popolare più 2,5, Fiat più 2,40, Telecom più 2,2, Buzzi Unice in più 2% come la Popolare di Milano. Bene anche Exor più 1,7, Unicredit più 1,4, Mediolanum più 1,2 come Unipol, l'1,1 lo guadagna Monte dei Paschi, l'1% Eni e anche Autogrill. Chi perde? Solo Tenaris meno 1,80, Terna meno 0,20, Finmeccanica meno 0,1%. Miglior titolo in assoluto, Finarte Casa d'Arte più 14,6, poi Basic Net più 5,3, P Quadro più 5 e Pirelli Real Estate più 4. Fronte opposto, Beni Stabili più 3,1, Meride meno, Beni Stabili meno 3,1, Meride meno 3,2, Filatura di Pollone meno 2,7%. Come sempre Radio Cori, Sole 24 Ore, CEO Condina, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, bene le banche dopo i conti di JP Morgan, questo abbiamo già detto in apertura, utili in crescita di oltre il 50%, ma anche UBS due giorni fa, insomma tutte le banche che molto si erano impelagate nei prodotti tossici, ne sono uscite, si sono disintossicate più rapidamente del resto dell'economia, le tossine le hanno lasciate a noi. Bene Intesa e Unicredit, insomma, per due notizie anche abbastanza specifiche, prego. Sì, diciamo che è cresciuto tutto il comparto bancario a Piazza Affari, bene Intesa tra le migliori, più 3,57, sia per le voci che vedono una possibile cessione di un pacchetto tra il 5 e il 10% di Fideura, ma Morgan Stanley prima di un'eventuale quotazione di Fideura, sia per la promozione ricevuta da parte di alcuni analisti che vedono Intesa a 3,4 euro contro gli attuali 2,8 euro. Per quanto riguarda Unicredit invece, che è cresciuta seppure in tono minore più 1,4%, si può dire che il mercato ha promosso la nomina del country manager per l'Italia, Gabriele Piccini, e difatti il via libera del CDA, seppur con alcune insomma compromessi al progetto del bancone voluto da Alessandro Profumo. Il bancone, la banca unica però col country manager che piace a Zaia e non solo, di questo parleremo alle 18.07. Estima Electronics, arriviamo tra un attimo perché ci sono i conti Intel, ne parleremo con i diretti interessati. Finarte, questo dato molto forte. Sì, Finarte, un dato molto forte, quasi più 15%, sì. Ieri a casa d'arte. E i conti in rosso tra l'altro. Sì, conti in rosso è pur meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo chiuso con meno 4,8 milioni, quest'anno meno 3,5. tanto che la riduzione, si rende necessaria una riduzione del capitale sociale e un nuovo aumento di capitale. In realtà cos'è che ha spinto così il titolo? È il piano di razionalizzazione e di ristrutturazione della società, che prevede dismissione immobiliare a Milano, Roma e Venezia, insomma vendono il patrimonio immobiliare della società per rilanciare il business, così sembrerebbe. Ancora altri titoli, vi dico un dato breve su Atlantia. L'assemblea Atlantia ex Autostrade ha approvato il bilancio 2009, Cerchiai, Fabio Cerchiai prende il posto di Gian Maria Grospietro, penso che ci sia un errore nell'agenzia, vado a memoria, che l'ha guidata per 8 anni, quindi Fabio Cerchiai dall'ANIA è passato adesso all'Autostrade, dividendo a 74 centesimi di euro per azione più 5,1%. E allora Pirelli, che è andata molto forte oggi, Pirelli è anche Pirelli Real Estate, qui c'è insomma l'avvicinamento, allo spin-off, allo scorporo tra le immobili e le gomme, le ruote. Prego. Sì, questa è una notizia che è stata anticipata ieri dall'Agenzia del Sole 24 Ore, Radio Core, che appunto ha identificato nella data del 4 maggio il giorno in cui il Consiglio di Amministrazione e il patto di sindacato di Pirelli potrebbero iniziare a esaminare questo dossier, che comprende appunto lo scorporo dell'immobiliare da Pirelli e dunque lascerebbe a Pirelli la piena espressione delle potenzialità dell'azienda, libera appunto delle zavorre dell'immobiliare. Logico quindi che gli operatori abbiano concentrato gli acquisti su questo titolo e anche su quello di Pirelli Re. ST Microelectronics, una battuta, perché ho già in linea il numero uno di Intel Italia. Volano Intel, vola l'olandese ASML, entrambe fanno high tech e quindi STM si adegua e guadagna, così come il settore europeo della tecnologia, che ha già fatto più 1,56%. Allora, grazie a Ceo Condina di Radio Core Sole 24 Ore. Parliamo proprio di Intel adesso. Perché? Perché ci ha impressionato non solo il fatto che i conti siano andati meglio di ogni attesa. A livello mondiale, 2 miliardi e 400 milioni di dollari di utile, più 288 nei primi tre mesi del 2010 rispetto al 2009, 43 centesimi di dollaro per azione come dividendo, e poi il risultato operativo che sale tantissimo del 430%, ma anche il fatto che Intel tornerà ad assumere per la prima volta in 5 anni tra le 1000 e le 2000 assunzioni. Non abbiamo moltissimo tempo, ma ringrazio l'ingegnere Dario Bucci, amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera, ingegnere. Buonasera a voi. Allora, mi fanno segno di un minuto, mi sa che dovremmo poi scavallare dopo il GR. Intanto ci dica come avete fatto il 288% in più di utile. Poi dopo il GR mi racconta anche di dove assumerete. Il risultato sembra una banalità, ma è frutto degli investimenti fatti in un anno di crisi come il 2009, nuove tecnologie, nuove fabbriche, 32 nanometri, annuncio di nuovi prodotti a gennaio al CES, grosso successo di pubblico, cioè il mercato ha accettato molto bene questi prodotti e questa è la storia di questi tre mesi. Beh, complimenti per la sintesi. Allora, vediamo se facciamo fare tutto. Dove li assumerete questi 1000-2000 dipendenti? Ovviamente gran parte dei dipendenti finiscono nelle fabbriche, cioè dove avviene la produzione. Non in Italia. Quindi purtroppo non avremo modo in Italia. Speriamo che vengano in una seconda battuta, cioè più fabbriche, più prodotto, più domanda, più necessità di commercializzazione e marketing, e quindi alla fine, magari non immediatamente, ma si assume un po' anche in Italia. Quindi per ora nessuno dei nuovi impiegati nel 2000 arriverà in Italia, purtroppo, no? Non posso escluderlo immediatamente, però che quando Polotelleni parla di questi 2000, ovviamente ha in testa soprattutto fabbriche, e in questo momento fabbrica negli Stati Uniti. Beh, comunque ci avvisi se aprite la lista anche agli italiani. Grazie e complimenti per l'utile, veramente, perché insomma più 288% e più 433% a livello mondiale di ricavi non è male. Grazie all'ingegnere Dario Bucci, mi sono legato in Intel Italia e Svizzera. E allora il GR, oggi corriamo, e poi la Lega e le banche dopo le dichiarazioni di Umberto Bossi, e che significa soprattutto la Lega e le pressioni, c'è chi parla di accerchiamento verso le fondazioni bancarie che le banche del Nord controllano, che controllano le banche del Nord. 349-238-6666 per gli sms. 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in cui parleremo soprattutto del ruolo della Lega nelle regioni che controlla relativamente al settore bancario. C'è una dichiarazione di Bossi oggi che infatti riapre gli scenari. Una precisazione prima di tutto, però: ha ragione chi scrive che una barca, mi riferisco al tema di apertura, i 10.000 nomi di italiani che hanno il conto in Svizzera, la HSBC, che verranno trasferiti alla Procura di Torino dalla magistratura francese, su cui l'Agenzia delle Entrate ha detto che vuole utilizzare comunque i dati. Però ha ragione chi dice: attenzione, una barca da 7 metri non ha dei costi diversi da un'utilitaria di media cilindrata. Noi infatti citavamo i casi soprattutto delle barche sopra i 10 metri e delle auto sopra i 2500 cc. Comunque, la Lega e le banche è un po' che ne sentiamo sotto traccia parlare. Iniziò, e lo faremo risentire anche oggi, 2 settimane fa, a questi microfoni Luca Zaia, aprendo, poi l'ha riconfermato nel corso delle ultime giornate, aprendo credito a Alessandro Profumo, dicendo che lo stimava come amministratore delegato, e lì molti hanno visto un appoggio inatteso della Lega a Profumo, ai vertici di Unicredito, in difficoltà con le loro fondazioni bancarie. Allora parliamo di banche e fondazioni e Lega, nel giorno in cui, lo dico a chi si fosse premesso in collegamento, tutte le borse, soprattutto Milano, bene si sono mosse grazie ai conti economici, questa volta di JP Morgan, utile netto a 3 miliardi e 300 milioni di dollari nei primi 3 mesi, superiore a ogni stima. Bene anche UBS, che i conti li ha diffusi 2 giorni fa e restituirà i soldi alla Fondazione Elvetica. Qualche timore su un buco da 5 miliardi e mezzo, come ipotizzato dal Wall Street Journal, invece, su Morgan Stanley. Comunque, le banche d'affari europee e americane che si erano invischiate con i titoli tossici sono fuori da ogni tossicità, perlomeno da quello che vediamo dai conti. Oggi UbiBank ha guadagnato il 3,7, Intesa il 3,6, Banca Popolare più 2,5%, Popolare Milano più 2%, Unicredit più 1,5%. Il fronte, se vogliamo, nuovo per le banche del nord, cioè quasi tutte, forse Monte dei Paschi si può chiamare fuori, ma forse è l'unico. Il fronte nuovo si chiama Lega. Siamo in tutte le province, abbiamo la presidenza di tutte le province al nord, siamo anche nella regione. È chiaro che le banche più grosse italiane alla fine avranno per forza uomini nostri. Ad ogni livello. Certo, è la gente che ci ordina: andate, pigliatevi le banche e noi andiamo. Insomma, è Bossi, come lo abbiamo sempre conosciuto, molto netto. Insomma, è chiaro che ci prenderemo le banche del nord. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento, in studio anche, Marco Alfieri del Sole 24 Ore, autore di numerosi libri proprio sul nord e che sta seguendo il tema per il Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora, le fondazioni, ci chiedete cosa sono. Vabbè, sono soggetti no profit, privati e autonomi, che dovrebbero, anzi perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, di promozione dello sviluppo economico, quindi attività culturali e quant'altro. Sono 88, ce ne sono 19 in Emilia Romagna, 12 in Piemonte, 11 in Toscana, 6 nel Veneto, 3 in Friuli, 2 in Lombardia e Trentino. Dispongono di ingentissimi patrimoni. Dagli utili che poi ottengono dagli investimenti, poi hanno anche le risorse per queste attività di interesse collettivo, scientifiche, culturali, istruzione, arte e quant'altro. Hanno erogato nel 2008 1 miliardo e 670 milioni di euro con vari interventi. Questa è l'attività delle fondazioni bancarie. C'è un altro dettaglio però nelle fondazioni bancarie, che hanno un peso nell'azionariato delle banche. Allora, dentro Unicredito, la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e Ancona ha il 5,7%, è la quota più grossa assieme a Mediobanca, che però non ha diritto di voto. Ancora la Cassa di Risparmio di Torino, altra la Fondazione Cassa Risparmio Torino ha il 3,6%, Carimonte Holding ha il 3,1%, questo per quello che riguarda Unicredito. In Intesa San Paolo, per esempio, la Fondazione, che poi la Compagnia San Paolo, è il primo azionista, al 9,8%, la Fondazione Cassa Risparmio di Padova e Rovigo ha il 5%, ed è uno dei principali azionisti, la Fondazione Cariplo ha il 4,6%, l'ente Cassa di Risparmio di Firenze al 3,3, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna al 2,7. Chiudo con Unibanca, dove la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al 2,8 e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia al 2,1%. E quindi da qui insomma, l'appellativo di cassaforte del mondo delle banche del nord. Che cosa dobbiamo attenderci dopo questa dichiarazione di Umberto Bossi? Marco Alfieri. Diciamo la notizia di oggi è appunto che il capo Umberto Bossi per la prima volta ufficialmente ha aperto le danze, cioè ha detto quello che molti, come dire, avevano registrato soprattutto dopo il voto di due settimane fa. Grandi province del nord su cui appunto insistono queste fondazioni bancarie, come giustamente dicevi tu, a loro volta azioniste decisive delle grandi banche, delle due grandi banche sostanzialmente italiane post fusione bancaria del 2006, quindi Intesa San Paolo e Unicredit, e quindi, come dire, aumenta di per sé il potere e la presa egemonica della Lega politicamente, che tenderà a travasarsi dentro queste fondazioni. Non sarà semplice, perché ovviamente ci sono meccanismi bizantini di elezione e di cooptazione dentro queste fondazioni, non sono solo di nomina politica, e quindi ci sono anche enti funzionali come le camere di commercio, addirittura in Veneto alcuni posti nelle fondazioni spettano ancora la curia, quindi è un meccanismo variegato e bizantino. Dopodiché il primo passaggio, in attesa di una, come dire, riforma possibile delle fondazioni bancarie, che ogni tanto la Lega agita a mo' di spettro, ci sarà certamente una moral suasion molto forte sugli attuali vertici, con inserti, come dire, selettivi in alcuni casi. Pensiamo alla Compagnia di San Paolo, che dovrà sostituire il vicepresidente. Lì è possibile che, per esempio, con il nuovo Piemonte di Cota potrà chiedere, diciamo così, una persona di sua fiducia. Però diciamo che le parole di Bossi sono, come dire, appunto un manifesto politico per ora. Tradursi poi in una capacità di entrare nel sistema, appunto, è tutta una cosa da vedere. Allora, per quello che riguarda la Fondazione San Paolo, lì si fa il nome di Domenico Siniscalco come vicino a Giulio Tremonti, di cui è stato anche numero due, poi ha preso il posto come ministro dell'economia. Esatto. E che soddisferebbe quindi anche, sarebbe considerato dalla Lega più vicino, e quindi dopo la vittoria di Roberto Cota alla presidenza della Regione Piemonte. Per quello che riguarda il Veneto, lì l'attenzione di Luca Zaia è stata più concentrata su Unicredit, e anche qui parleremo poi della nomina del country manager, come si chiama. Sullo sfondo temo però che sarebbe un po' riduttivo limitare il ragionamento a una voglia politica della Lega di avere il suo uomo dentro. Qui, a mio avviso, c'è un problema culturale, e ne parliamo dopo il traffico, culturale quindi anche politico. La Lega, che esprime la maggior parte dei voti del territorio, non ha mai visto i membri delle fondazioni bancarie come personaggi riconducibili, vicini a sé, anche culturalmente. Ci sono spesso espressioni di studi di avvocato, di commercialista, di notaio, di personaggi illustri della città, del mondo cittadino, dell'urbe. Sappiamo che la Lega con il centro città ha un po' di problemi. È più anche forte nel contado, diciamo. È più forte nel contado, e si è sempre sentita trattata un po' come un soggetto di serie B dai grandi salotti buoni di Verona, di Torino, di Padova, insomma delle città che abbiamo citato. A torto ragione, questo non mi interessa, ma insomma, mi sembra un dato importante da inserire. Ci risentiamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di questo programma, banche e fondazioni. Perché non ascoltiamo cosa ci ha detto negli studi che avevamo a Taormina Corrado Passera in una lunga intervista proprio sul ruolo delle fondazioni, perché qui si inserisce anche un altro tema. Le fondazioni bancarie, soprattutto nella vicenda Unicredit, hanno voluto giocare un ruolo pesante, hanno tutti i diritti, hanno bloccato di fatto il progetto di banca unica di Alessandro Profumo, chiedendogli poi di avere qualcosa in controparte. È nata un'inattesa alleanza tra Zaia e Alessandro Profumo, che molti hanno voluto leggere come il presidente Zaia appoggia Alessandro Profumo perché in questo modo gli dà un sostegno esterno, lui che è in difficoltà con le fondazioni bancarie, e mette in un angolo le fondazioni bancarie. Invertiamo allora l'ordine degli interventi. Sentiamo Zaia due settimane fa, quando aprì a Profumo e chiarì cosa intende la Lega per banche del territorio. No, guardi, io fra l'altro ho molta stima del dottor Profumo e va riconosciuta la sua grande attività, la sua grande, ovviamente, azione per il sistema di credito italiano e quindi anche internazionale. Dico solo che vediamo con chiarezza che le banche del territorio, penso alle banche di credito cooperativo, penso alle banche popolari e anche Unicredit piuttosto che Intesa San Paolo, insomma tutto quello che c'è sul panorama, sul mercato, sono sempre più attive, proattive, vicino ai nostri imprenditori, se hanno le radici ben profonde, ben ancorate sul territorio. Le faccio un esempio che può rappresentare una banalità, ma dà l'idea. Un benefondi per un imprenditore fatto con una telefonata a persone che conoscono l'imprenditore e il territorio ha un senso. Far girare una telefonata e farla arrivare, che so, alle Isole Vergini o in qualche paradiso fiscale per avere la risposta da qualche giorno, significa sapere già che il nostro tessuto sociale, che è della piccola e media impresa, che è un tessuto sociale dove conta molto il saper fare degli imprenditori, dove comunque conta l'ingegnosità di questi personaggi, ovviamente però escono dagli schemi dei computer, dei software complessi dei multinazionali. Allora, Marco Alfieri, mettiamola in questo modo. Vista la difficoltà di rapporto culturale tra la Lega, che esprime chi abita fuori dalle mura, la fascia più, diciamo, verace del territorio, e le fondazioni bancarie, che la Lega vede sempre come espressione di quei circoli, di quei salotti buoni che si appoggiano a vicenda, fatti di notabili che nulla hanno a che vedere col mondo leghista, può essere che la Lega preferisca dare degli appoggi diretti ai manager per mettere in difficoltà le fondazioni bancarie? Che il vero obiettivo, voglio dire, sì, non sia Profumo, Passero o quant'altro, ma la fondazione del territorio, quindi la CRT Torino, la Cari Verona e quant'altro. Tutto quel che serve per cambiare un po' la costruzione materiale delle fondazioni va nel senso della strategia leghista. Proprio sul Veneto penso anch'io che sia quella la strategia, cioè puntellare un Profumo in difficoltà dal punto di vista del rapporto con le proprie fondazioni, per cercare di, come dire, cavare dalle fondazioni più, come dire, più interesse, più risorse per il famoso contado, no? Cioè, in fondo la Lega può anche leggersi come la periferia che cerca la città, il voto leghista delle ultime votazioni. Non a caso il grande bersaglio di Luca Zaia in queste settimane è stato Dino De Poli, cioè l'attuale presidente della Fondazione Cassamarca, che è azionista, certamente non con il peso di Cari Verona, ma azionista importante dentro Unicredit, proprio accusandolo di essere una persona, circa 20 anni che è presidente della Fondazione Cassamarca, persona autoreferenziale, come dire, legato a certi salotti cittadini e non, come dire, interessato appunto al senso comune leghista, fatto di capitalismo diffuso, piccole e medie imprese. Quindi è possibile, sì, che ci sia una sorta di alleanza, ovviamente tattica, col management, per cercare di trasformare e di spingere le fondazioni ad essere più vicine al territorio. Corrado Passera, numero uno di Banca Intesa, nel nostro studio 2 settimane fa sul ruolo delle fondazioni. I grandi gruppi che si sia riusciti a creare anche nel nostro paese, con risultati credo positivi, si sono stati creati grazie al ruolo delle fondazioni, che hanno rinunciato, come previsto dalla legge, al controllo delle banche, ma poi hanno giocato un ruolo di investitori di lungo termine molto positivo in questi anni. Quindi, per quello che è la mia esperienza, io posso solo dire che senza le fondazioni non ci sarebbero le belle grandi banche che sono state create. Poi non bisogna confondere il momento topico del rinnovo dei consigli e delle assemblee, dove gli azionisti in generale, siano queste fondazioni o di altro genere, si mettono d'accordo, decidono, in certi casi discutono tra di loro su come fare le liste, ma questo è nella fisiologia delle cose. Poi c'è il terzo aspetto, che è quello che diceva lei. Le fondazioni, o talune fondazioni, come rappresentanti all'interno di grandi banche, di interessi più legati al territorio. Vedi, anche ricorderete la cautela di Corrado Passera, che è un importante ruolo delle fondazioni, ma non ritrasformiamo banche che hanno assunto dimensioni importanti come Intesa, Unicredito, ma anche UBI, Banco Popolare, in banche rurali, in casse rurali, non ha detto questo, lo aggiungo io, in banche troppo locali, e questo è il timore che hanno nei confronti della Lega. Ieri dicevamo, sarebbe un errore buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui è vero che certe banche si sono occupate troppo di finanze, poco di credito sul territorio, conoscono meno il territorio, però attenzione a non tornare alle vecchie casse rurali, che poi non avevano massa critica. Marco Alfieri, alla fine ce la farà la Lega, oppure le regole e poi la capacità di resistenza sarà superiore al previsto? B, molti ascoltatori ricordano che la Lega già tentò di avere una sua banca, per usare un'espressione che non è della Lega. Credi Euronord fallì miseramente, fu salvata da Fiorani, che poi non si rivelò un esempio di oculata gestione, diciamo, della cassa. Marco. Beh, sì, è così. Cioè, il famoso abbiamo una banca di Fassignana memoria, la Lega in realtà l'ha già ripercorso, diciamo, in passato, con il tentativo fallito di farsi appunto la famosa banchetta in casa, Credit Euro Nord, che sappiamo tutti dal punto di vista della cronaca come è andato a finire. Ma diciamo che la partita è molto complessa. Io non sottovaluterei la capacità mimetica e anche strategica di lungo corso della diciamo di quella che si chiama anche in maniera un po' enfatica finanza bianca. Ricordiamoci che le fondazioni bancarie attuali sono di fatto governate da esponenti che più o meno hanno bordeggiato la vecchia Democrazia Cristiana, e quando, dopo, con Tangentopoli, quando è finita la stagione della balena bianca, si sono sostanzialmente inabissati come i sommergibili e sono entrati appunto nelle grandi fondazioni. Lo vediamo, alcuni loro esponenti, penso a, soprattutto a Fabrizio Palenzona, hanno un dialogo, e un dialogo anche tattico e intelligente con gli esponenti leghisti. Io credo che verrà fuori un grande mix, cioè una capacità dell'attuale finanza bianca di collegarsi al territorio, ragionare con la Lega e trovare anche, come dire, una sorta di cooperazione e competizione. E comunque noi torneremo a occuparci del tema, perché è un tema cruciale, a cavallo tra politica e economia, anche perché è innegabile che poi, se tu vuoi avere le risorse sul territorio, devi contare qualcosa nel mondo delle banche, nel territorio delle fondazioni bancarie. Grazie a Marco Alfieri. E devo dire che ha ragione chi dice, ha letto il capolavoro di ieri, capolavoro tra virgolette, di Luca Zaia, che è riuscito a annunciare prima del gruppo Unicredit le nomine dentro i vertici di Unicredit, e in questo modo dando il messaggio che, insomma, il rapporto è diretto. Ieri, ricorderete, Zaia ha detto ben prima che uscissero i nomi: ringrazio Profumo per i tanti veneti inseriti nel CDA, perché la banca è più è local più ci piace, è ideale anche il nuovo country manager designato in Gabriele Piccini. Tutto vero, peccato che Unicredit ancora non avesse diffuso il comunicato. Un comunicato lo devo leggere io invece adesso: il nuovo consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore, l'assemblea degli azionisti l'ha appena approvato, e nominati dentro il CDA del Sole 24 Ore Giancarlo Cerutti, Francesco Caio, Marco Tani, Donatella Treu, Luigi Abete, Antonio Favrin, Marino Vago, Diana Bracco, Giampaolo Galli, Pierluigi Ceccardi, Alberto Memartini, Antonello Montante, Piero Gnudi, Aurelio Regina e Mario D'Urso. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio la nostra programmazione. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.